C. Ascolta e controlla. Quando Matteo sarà diventato avvocato, non avrà molto tempo libero. Forse gli dispiacerà non riuscire a coltivare i suoi interessi. Lavorerà nello studio di suo zio, lontano da casa, e gli ci vorrà quasi un'ora per arrivare in ufficio. Quando gli capiteranno degli incarichi importanti, gli farà piacere sentirsi responsabile.